c'è qualcuno? Attenzione, canale 10, prego. CQ10, c'è qualcuno? Avanti. Ciao Gianfranco, buonasera. Sì, ciao, tu sei Gianni? Sì, io Gianfranco, Gianni sono, sì, sono con un altro apparecchio, ma sono io. infatti la voce è più, come dire, tranquilla, non è quella prepotente. Più calda. Infatti a me mi chiamano Gianni il Caldo. Ah? Stavo pensando, quando si dice, come si dice in sassarese, adesso non mi viene il punto maldo, Ma ho capito cosa vuoi dire, aspetta che c'ho troppo alto il volume, forse ce l'hai più troppo alto, e quindi non riesco a percepire bene le parole. Può darsi, perché ho portato la manopola e adesso non la vedo. Dimmi se è troppo alta la mia, che è abbasso. E adesso un pochino va meglio. Guarda, va abbassato un pochino, com'è? Oh, va bene, adesso è chiara. Prima era troppo forte e rimbombato. Sì, perché qua c'è... non la posso chiamare neanche manopola, questa del metagame. È un affare metà di una matita, quindi è come che non ci sia. Basta muovere l'apparecchio, sì. Se ne va per cavo di spesso. Porta, ho guardato il portatile, siccome il poveraccio qua nel lato, se lo vuoi, non c'è problema. Però ho visto che il cavo è un po' mangiato, letteralmente. Il cavo è quello che porta la corrente, no? Non è niente di serio, però c'è quella malattia che prende la plastica, la gomma, cioè presente. E la lettera 7 che funziona? Funziona, già funziona. Solo che vuole pulita la contattiera di sotto. Perché ho visto che proprio le parti di contatto, nonostante non l'abbiamo usato, è proprio era buttato in macchina, non è che siano ossinate, sono un pochettino diventate scure, proprio le parti di alimentazione. A meno male che non era usato, perché cosa dovrà fare in macchina? Vabbè. Quello lì, vabbè, con un po' di CRC si chiude, non c'è problema. Interessante che funzioni. E quanto lo farà? Non lo so, dimmelo tu, quanto farà una cosa del genere? Quanto si può prendere? Sì, non lo so. Non lo so quanto potrebbe valersi. Penso 50 euro, così. Io pensavo 250, come cos'era, qual era quello lì, adesso non lo ricordo. 250, 250 ne biglio due, nove. Vabbè, 50 non te lo do, perché secondo me è troppo, cioè, capito? Nonostante sia nuovo, all'interno vedi che è nuovo, tutto qua, però 50 per me è troppo. Dai, ti do quello e anche un'altra cosa in omaggio che penso ti serva. L'importante è che non mi chiedi come si usa. Importante? Che non mi chiedi come si usa. Cosa? L'apparecchio? Sì, un altro apparecchio, te ne do due in poche parole. Scusa che mi sta scusando l'interno. Sì, aspetta Gianfra, che c'è un break. Avanti break. Ciao Nico, dove sei? Venezia, città di Venezia. Chi è che chiama? Nicola, un attimino che c'è uno che chiama da fuori, ti sta coprendo. Avanti, chi chiama la Sardegna, avanti. Scusa se ho disturbato, ma qua sento te un po' meno il tuo amico. Tango 2, operatore Stefano, città di Venezia, cambia. Stefano, dai, è l'operatore Gianni Doppio Rum della città di Sassari che ti supercordializza. Non ci disturbi affatto, è sempre un vero piacere sentire gli amici di fuori, avanti. Non ho molto 4 anni in questo momento, riesco ad ascoltare bene. Lo trasmetto da vediamo un po', gruppo grigio, avanti. Sì, Santiago è 7-8, ma la radio è bassa, come mai è così bassa la radio, gruppo grigio? Dove sei? Ho capito, dai. Ma mi devi dire quando ci possiamo trovare a fare quelle prove. Gianni, scusa, ritorno subito, che c'ho una casa, cioè. Va bene, c'è un amico da Venezia che arriva abbastanza bene qua. Avanti, l'amico di Venezia. Ripeto, stazione Tango 2, operatore Stefano. Tango 2, Stefano, Venezia, centro storico. Io ti ricevo USB, ovviamente. Comunque Radio 5. L'altro corrispondente purtroppo in questo momento non lo so. A te cambio. KK Stefano, dai. Io ti ascolto veramente bene, dai. Santiago è 7, però la radio è buona, dai, la radio è 4,5-5. Diciamo che c'è molto QSB e anche rumori della propagazione, ma diciamo che riusciamo a sentirci e questo è quello che interessa. Avanti. Senz'altro, bene, bene. Segnale 9, Radio 5. Io sto trasmettendo con una radio con tutta apparecchiatura vintage, nel senso che l'apparecchio, il baracchino, è un 23 canali della Per Simpson, modello SSB, base, microfono da static, da tavolo, preamplificato, amplificatore della ZG, modello BV 2001, tutta roba vecchia. Ok, a te cambio. Io sto parlando con un Cobra nuova generazione, omologato, 40 canali in questo momento, però ho la possibilità di attaccare diversi apparecchi, dai. Quindi adesso attaccherò il Galaxy Saturn Echo per vedere se ti ascolta ancora meglio, dai. Vediamo un po' con Saturn come ti ascolto, quello è vecchia generazione, anni 80. Io rimango all'ascolto allora. Magari mi accorgo meglio. Attenzione Venezia, si ascolti il doppio rum dalla città di Sassari, K. Sassari, scusate. Scrivila come, te cambio. E Bassina, la possiamo alzare, guarda, così va bene. Così è meglio, così va meglio. La tua è tranquilla come modulazione, il Per Simpson lo conosco come apparecchio, in quanto io modulo circa 40 anni, quindi immaginati tu. Il vintage è un apparecchio, siamo uno tra i più bellini, ecco, stazione base, 23, quello diciamo col finto legno davanti a te. Capo, li conosco tutti perché io sono appassionato di vintage. Mi piacciono specialmente le stazioni base. Io ne ho un'altra, anche 497 della Intec, che è una stazione base, lo stesso, e poi magari la porto, vediamo un po' come va. Io ti ascolto molto bene qua, e come modulazione ti ascolto meglio con questo qua, con questo apparecchio, come ricezione ti ascolto meglio. Avanti Nicola, vediamo un po' se ci sei. No, capo, vediamo un pochettino. Ascolti Lupo Giallo, Venezia, avanti. Nicola, non ti sente Nicola. Comunque qua arrivi molto bene anche di radio adesso. Arrivi forte sia di radio che di Santiago. Forse prima era la propagazione che ti colpiva. Dai. Ti ascolto molto bene Nicola. Vediamo chi chiama Sassari, avanti, c'è qualcuno che chiama Sassari sottofondo. Avanti chi chiama Sassari sul canale 10. Si stanno volando e non sento più nessuno, dai. Mi dispiace per Nicola, ma sta uscendo con un antennino, con un'antenna di macchina, anche piccola, non so se conosci la Mini Turbo della LED, messa sul terrazzino con una base magnetica, capito, amico di Verita? Con l'antenna comunque le connessioni sono, insomma, anche complicata, così non si può neanche prendere, tieni conto anche che ho anche un po' di QRM sotto, quindi la cosa molto complicata, ecco. Va bene, vi saluto, sono qui al tuo locale con l'amico Nicola, saluti, grazie per avermi risposto e ci sentiamo. Sì, la stazione è tanto per Stefano, ciao ciao. Ciao Stefano, penso che così mi ascolti meglio, dai, ho alzato un po' il volume, perché avevo il mic gain al minimo. Quello è il problema, che avevo abbassato il mic gain, è per quello che mi sentivi basso. Papa, dai, ci sentiamo, mi ha fatto piacere ascoltarti, alle prossime, speriamo che la propagazione ci aiuti, e tante cose belle. Un abbraccio dalla Sardegna. Grazie a te. Avanti, Lupo Ligio, ci sei. Sì, ma questo non è niente. Tanto io l'ho fatta anche con la Gricia. E diciamo che anche la propagazione. Adesso ti registro, ti infatti mando la registrazione qui su WhatsApp. Sì, c'era Gianfranco, si è spostato, non lo so dove sia andato. Aspetta un attimino, guarda che mi metto gli occhi. Cappa, c'è anche una stazione in casa, anche grossa, è un radioamatore Gianfranco, capito? È un radioamatore. No, non lui c'ha l'antenna sul tetto, non è sul frigorifero di Roma. Non è roba da frigorifero, lui c'ha l'antenna anche grossa. Cappa. Aspetta. Invece è andato al Ghero ieri. Ecco, vabbè, come sta? Quasi pronta? E vabbè, dopo già sgonfia. Quando lascio le vene sgonfia. Quindi sarete contenti, dai, i nonni sono contenti. Ho un altro registratore, aspetta un attimo. Secure the exit. Italy from Sardinia chiama. Anche l'Inghilterra me la sfoglio. Inglese. Anche quello è vero. È entrato Gianfranco, ora così almeno ti faccio sentire Lupo Ligio, qui ti faccio sentire la radio. Mandami un ciao su WhatsApp, così poi ti mando il video, là. Ora ti faccio vedere il tuo segnale in diretta, guarda, mentre parli, vai. Ora ti faccio sentire la voce da l'altro parlato, prova. Cappa, avanti Gianfranco, tutto in diretta, la situazione, perché lo far vedere a Lupo Ligio come arriva con l'antenna nuova. Io non sento lo spagnolo. C'era l'Inghilterra, c'era la Venezia, però c'era proprio il momento che sono entrati in propagazione tutti, dai. Stavo spingendo un cancello che si è bloccato, che palle. Ma non è motorizzato? Sì, è motorizzato, ma il caldo lo ha dilatato e quindi si sta toccando la cosa, no? Il binario. Quindi il motore non ce la fa, entra in protezione e quindi non lo muovo. Pulisci bene dove scorre la ruota del binario, lo sai che a lui a volte dove lavora, all'ora di uscita, se ne usciva dai binari la ruota e per andare col cancello ci voleva il muletto. Dovevo andare, riaprire, prendere il muletto, alzarlo, centrarlo per far entrare nel binario. Un casino, ogni volta ce ne tornavamo a casa, invece che chiudere alle 8, già chiudevamo alle 9:15, 9:30. E dopo, quando venivano questi imprevisti, te ne andavi sempre via alle 10:15, capito? Come nulla fosse. Con questa temperatura è un disastro. È un disastro, sta dilatando tutto quello che trova, poi se è ferro peggio che mai. È così, non lo sento la Nicola, salutandola, c'è questo spagnolo che parla praticamente di continuo. Beh, gente mala. Ebbene, Marco Cono. Ciao Gianfranco, Nicola, Gianni, oggi giornata piena. Sono entrato per un saluto perché tanto dobbiamo uscire, commissioni, eccetera. Però è stata una giornata costruttiva, dai, meglio che l'altro ieri che stavo boccheggiando. Ma oggi c'è venticello, qua si sta bene, Marco. Qua si sta molto bene, c'è molto vento, tira l'aria con le finestre aperte, che è una bellezza. Avevo fatto una drumita, anche se avevo la glicemia molto alta, sono andato a mangiare i sushi, mi ha fregato. È delicata quella roba lì già, bisogna avere pazienza. Bene, detto ciò, buon proseguimento di serata. Ciao Nicola, spero che sia soddisfatto anche di quell'antenna. Non so se abbia fatto prove in giro, dai. E rilancio Gianfranco e buon proseguimento, ok? Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo, ma. Ci sentiamo, dai. Ciao Marco, vai a fare colazione così, che sennò poi è tardi. Sei fatti sentire ogni tanto, mamma mia. Ehi Gianfra, e certe volte non... cioè quando il tempo è troppo poco il tempo. Vabbè, ma se non ne approfittiamo adesso poi, guai. Ok. Gianni, adesso il problema è come faccio a portarti questo imbarazzo. Perché qual è il problema? Che problema c'è? È il problema di tempo. Tu dove sei a Sassari, sì? E io? Sassari dietro via Barbetta. Adesso c'è anche il tuo panciabono, un po'. Quando vuoi te lo porto, dai, te lo scarico e buono tassicchi. Per me può venire anche stasera, non c'è problema. Io sono a casa. Beh, anche adesso vedo un po' come la situazione, se, che ne sono già le 7:30. Vediamo un po', no? Io, se non domani, non lo so, quanto non c'è nessuna urgenza. Ok, come facciamo a sentirci? Perché quando sono lì ti dovrò cercare, io mi ricordavo via Sicilia, no? No, via Mores, non via Sicilia, dietro via Balbetta. Via Mores 30, non c'è da sbagliare. Dove c'è il mio carissimo amico? Dove vai, se dice? Sì, sì. Il mio palazzo rimane più su, Vittore, appena più su. Mi risulta proprio di fronte alla finestra di cucina, come... Sì, sì, era lì, in quella zona, dove ci sono i mormoni, lo sai? Sì, so dove la chiesa. La chiesa del cammino ritrovato, cosa era? Santi degli ultimi giorni. Appunto, perché erano ritardatari, sicuramente. Io abito di fronte, il portone dopo il mormone di fronte. C'era uno spiazzo davanti, non ce l'ho sbagliato. Ok. Va bene, adesso guardo, Tanto sei qua in ascolto, no? Sì. PMR non ne hai? Sì. Allora mettiti in ascolto su un canale, così mi eviti di rimetterci le batterie, perché ovviamente te l'ho senza batteria. Sul 7. Ok, ti chiamo sul 7 allora. Sì, sì, guarda che ti ho già spedito tutto. E poi soddisfatto, sì, dico. Hai ascoltato il video? Ah, il video non ti è arrivato ancora. Io l'ho mandato, guarda per esempio. L'ho scritto, c'è Nicola sotto il video. Sai che si blocca a metà, non sta arrivando perché hai visto quella rotellina che gira per caricare, quella lì si blocca a metà. No, assolutamente. Non è il telefono pieno, ma probabilmente è grosso come... Lo senti qua. È arrivato Gianfranco, ora così almeno... ti faccio sentire un po' vicino, qui ti faccio sentire la radio. Mandami un ciao su WhatsApp, così poi ti mando il video, dai. Carica la fa e poi ci blocca. Va bene? Sì, prova. io ti sento meglio con l'altro, lo sai? No, con l'altro microfono, quello che è il VP. Prova l'altro, non cambia niente. Io sto uscendo in questo momento, Gianni. Cosa? Sto uscendo in questo momento. Ti metti a venire che mi devo mettere una maglietta e un pantaloncino che sono disabilito. Guarda, sono all'incirca 8 km, quindi fate il conto. A un 15-20 minuti. Vabbè, quando sei sotto casa è chiaro, tanto non c'è da sbagliare, guarda. Dove c'è la chiesa dei mormoni, giri lì, ti fermi al primo portone che trovi sulla destra e sono già di tutto. Sì, ok, ma tanto ti chiamo sul 7, dai, in chiamata. Ok. Dai, se no mi dai solo l'apparato e basta, e non me ne faccio nulla dell'altra cosa, non so manco cosa sia. Cos'è l'altra cosa che fai? Un pomeriggio. Ma non ci vediamo allora a fare le prove, a misurare stazionare e tutto qua. Io vabbè. Capo, è arrivato chi è qui? Se ti era arrivato, adesso ti si è abbassato anche il segnale, hai spostato la penna. No, sei sceso da 7 a 4, è impossibile. È la batteria, non è l'antenna. Adesso sei 7, lascia le cose come sono. 7, vai bene, tranquillo, io adesso vado a preparare perché sta venendo Gianfranco che mi deve portare roba. Ok? No, sto qua, mi metto la roba e sono qua, sì. Sono le 8 meno 25. Via, ciao.